Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail alla quale segnalare casi, mi raccomando, che non coinvolgano solo chi scrive, ma che siano rappresentativi di una moltitudine più vasta. Un abuso al giorno, @radio24.it. Vi ricordo il mio blog, robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Se volete visitarlo mi farà piacere, anche perché potrete lasciare i vostri commenti o suggerire anche temi. Allora, oggi parliamo di un caso: la perdita, o comunque il furto sarebbe meglio dire, di documenti, carte di credito, libretti di assegni intestati, eccetera eccetera, che continuano a distanza di anni a creare problemi, perché anche quando si crede di aver fatto tutte le comunicazioni giuste ai tanti istituti o comunque istituzioni, enti coinvolte nella perdita o nel furto dei nostri documenti, c'è sempre qualche sorpresa dietro l'angolo, e noi di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti, a partire dal radioascoltatore della provincia di Cremona che ci ha segnalato il suo caso. È Achille Rizzi. Buongiorno Rizzi. Buongiorno a lei. Allora, che cosa le è accaduto, Rizzi? Lo racconti ai nostri radioascoltatori, chissà quanti di loro si identificheranno nella sua storia. Allora, nel gennaio del 2006 ho subito un furto, praticamente è stato rotto il vetro dell'automobile e sottratta la borsa di mia moglie, che conteneva i documenti e tra questi anche un libretto di assegni. Noi abbiamo sporto subito denuncia ai carabinieri, abbiamo consegnato il tutto alle poste perché si trattava di un conto banco posta, dopodiché pensavamo di aver risolto la cosa e a distanza di mesi invece siamo stati convocati dalle poste perché questi assegni venivano utilizzati per confermare ogni volta che l'assegno non era stato emesso da noi ma era stato rubato. Ecco, ma voi, come dire, la disavventura principale, già questo per carità è un danno, nessuno lo nega, ma la disavventura principale l'avete avuta, io dico principale perché è anche questa una evidenza di qualcosa che accade a migliaia di persone, allorché voi siete andati a richiedere un finanziamento per acquistare un'automobile nuova. E che cosa è successo in quel momento? Sì, un anno dopo, pensando che la cosa fosse risolta, cioè non collegavamo proprio niente dei due fatti, abbiamo chiesto un finanziamento per la sostituzione di un'automobile e una volta, diciamo, istruita la pratica, all'ultimo momento la finanziaria ci ha telefonato dicendo che non poteva più farci il finanziamento, senza darci nessuna giustificazione. Al che la cosa ci ha messo un po' in sospetto, ho pensato di andare a fare degli accertamenti e ho scoperto, andando alla Camera di Commercio, che appunto c'era il nome di mia moglie iscritto nel registro dei protesti con due assegni che risultavano sì evidenziati come smarriti o rubati, però probabilmente chi consulta questi elenchi guarda solo se c'è un nome e non va, ecco, a quindi controllare. A questo punto voi vi siete nuovamente rivolti alle poste per cercare di capirne qualcosa di più oppure no? Sì, ci siamo rivolti alle poste, però non abbiamo ottenuto niente, nel senso che le poste hanno dato la colpa alla Banca d'Italia, questioni di banche che hanno accettato questi assegni senza controllare. Però ecco, non abbiamo mai avuto delle risposte né per iscritto né direttamente da persone, diciamo, che ci dicessero chi erano, ecco, a che nome parlavano. Ovviamente le disavventure non sono finite qui, perché le disgrazie non vengono mai da sole, no? Voi avete saputo che per cancellarvi dal registro dei protesti, anche se avevate avuto soltanto danni, dovreste prendere un avvocato e intentare una causa contro i ignoti. Sì, io infatti ho consultato un avvocato il quale mi ha detto che devo praticamente fare tre cause, cioè una d'urgenza per poter cancellare nel più breve tempo possibile questa iscrizione, eventualmente se il giudice non ritenesse sufficiente questa prima istanza una causa vera e propria che confermasse questa prima d'urgenza, e poi una causa per risarcimento danni, non so, alle poste o comunque a chi mi ha causato questo danno. Per cui... E poi c'è un'altra cosa molto sfiziosa che la dice lunga sui rapporti che esistono tra gli istituti che erogano credito, qualunque esso sia, una banca o appunto uno sportello postale. Voi volevate aprire un conto corrente online, non ve l'hanno aperto, ma soprattutto, mi corregga se sbaglio, non sapete il perché, nessuno vi ha detto il perché. Sì, sì, cioè mia moglie che ha questo conto corrente presso le poste ha sentito la pubblicità di questo banco posta click che stanno pubblicizzando adesso con zero spese, ha chiesto di poter aprire questo conto in modo da eliminare l'altro conto corrente normale per ridurre le spese, e ci è arrivata una lettera dall'ufficio clienti delle poste, che naturalmente non ha nemmeno un numero telefonico per sentirli, in cui si dice che istituita la pratica non è stato possibile accettare la domanda, per cui senza nessuna motivazione c'è stato rifiutato l'apertura di questo conto. Insomma, oltre il danno anche la beffa, anzi direi più di una beffa. Allora, per capirne di più e continuando ad invitare i nostri radioascoltatori a segnalare casi rappresentativi che magari vertano intorno a questa questione, a un abuso al giorno @radio24.it, chiamo in causa Maria Stella Anastasi, che è segretario della Lega dei Consumatori e consulente legale per il comparto bancario finanziario. Buongiorno Anastasi. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno al signor Rizzi. Allora, io direi, Anastasi, che cosa possiamo dire di questa vicenda, soprattutto quali consigli utili possiamo dare a quanti si trovano con assegni protestati, ancora protestati, senza saperlo, dopo aver fatto il giro delle 77.000 parrocchie per dire a tutti: attenzione, guardate che mi hanno rubato questo, questo e quest'altro. Guardi, onestamente, le cose che ci ha raccontato il signor Rizzi, come aveva anticipato lei, non sono purtroppo così rare, e soprattutto i consigli che il signor Rizzi ha avuto dal mio collega avvocato che ha già consultato sono corretti, nel senso che nel caso del signor Rizzi sicuramente c'è in maniera molto evidente una responsabilità delle poste. Quindi tutto quello che il signor Rizzi dovrà fare per ottenere la cancellazione di questo suo protesto, quindi proprio perché alla base di questo protesto c'è un reato in qualche modo, che è appunto il furto che lui ha subito, avrà quindi la necessità di effettuare quelle operazioni che il mio collega gli ha chiesto, in maniera da ottenere un provvedimento di sospensione della pubblicazione di questi protesti, che poi verrà utilizzato ovviamente anche in Camera di Commercio. Quindi in realtà la procedura è innegabilmente complessa. Ecco, è innegabilmente complessa, purtroppo contorte a chi ne fa le spese poi è il cittadino. Però le chiedo, Anastasi, ma nell'epoca della telematica, nell'era della telematica, dove tutti dovrebbero colloquiare con tutti, dove oggi i ragazzi dialogano attraverso Facebook, le mail, cioè, ma com'è possibile che la pubblica amministrazione italiana, piuttosto che istituti privati, ancora chiedano code, documenti, atti, controatti, bolli, firme? Ma insomma, ma cosa deve fare un cittadino per avvertire tutti che gli è stato rubato un libretto degli assegni e che lui è una persona onesta? Ma è possibile che non si può dialogare e non si può mettere sul chi va là la Camera di Commercio, gli istituti di credito e chi più ne ha più ne metta? No, lei ha perfettamente ragione, così come ha assolutamente ragione il signor Rizzi, al quale direi sicuramente poi di continuare con le poste, e cioè il mio collega ha suggerito una causa di risarcimento danni. Magari, ecco, io nel frattempo mi sento di suggerire al signor Rizzi di mettere per iscritto già un reclamo ufficiale nei confronti delle poste italiane, se vuole presso le sedi delle associazioni dei consumatori, che in provincia di Cremona ce ne sono sicuramente più di una, lo aiuteranno anche a redigere assolutamente in maniera gratuita questo reclamo nei confronti di poste italiane, proprio perché mi ha colpito il fatto che il signor Rizzi dicesse: io non ho avuto nessuna risposta scritta. Quindi direi insistere a questo punto sia lui a mettere per iscritto tutti i danni che ha subito e subirà, perché ovviamente ci saranno i costi delle azioni legali, quello che lei diceva per quanto riguarda l'aspetto burocratico, innegabilmente è così. Purtroppo in questo caso il cittadino non ha, il signor Rizzi ha fatto quello che spettava lui, quello che sono le altre istituzioni, esatto, lui ha fatto la sua denuncia e ogni qualvolta le poste lo hanno chiamato, si è presentato e ha spiegato ogni volta quello che si era verificato, quindi innegabilmente nel caso del signor Rizzi è veramente una persona che ha agito in maniera correttissima, impeccabile direi, impeccabile davvero, e nonostante questo si ritrova ad avere questa vicenda. Oltretutto il danno che lui sta subendo ha anche degli accessori, perché se ai signori, al signor Rizzi e alla moglie l'autovettura dovesse servire per esempio per lavoro, e certo c'è un danno emergente assolutamente innegabile. Allora io ringrazio Maria Stella Anastasi, segretario Lega dei Consumatori, per i suoi preziosi consigli. Grazie al nostro radioascoltatore. Seguiremo ancora la vicenda e vi prego di segnalare casi che possano essere affrontati ad un abuso al giorno @radio24.it. Ringrazio in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.